una festa sui prati, una bella compagnia, panini, vino, un sacco di risa e luminosi sguardi di ragazze innamorate. Ma che bella giornata, siamo tutti vicini, ma chi lo sa perché domani questo può finire. Vorrei sapere perché domani ci dobbiamo odiare, incomincia la gara, la battaglia del denaro, non c'è più tempo né per ridere né per amare, chi vuol vincere deve saper lottare, e allora amico un colpo a te e tu li dai due colpi a me e io ridò tre colpi a te finché c'è forza per colpire fino a che un'altra festa c'è. Alla prossima! Ciao Giro! Ciao, grazie! Grazie!